Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il Presidente del Consiglio non si candida. Come vedete, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha rassicurato oggi Matteo Renzi, dopo tutta la sua scalata, la sua escalation verso poi la presidenza del Consiglio, ha detto, ha rassicurato, non si candiderà anche alle elezioni europee. Aveva assicurato anche in altre occasioni che non sarebbe salito ulteriormente, ma in questo caso sembrerebbe che abbia detto effettivamente quello che sarà. Ma oggi era presentare il libro di qualcuno che fino a qualche tempo fa sembrava essere il suo acerrimo nemico. Questo non è un dibattito, nel senso che siamo d'accordo pressoché su tutto, diciamo, ecco, forse non, da questo punto di vista facciamo parte della stessa squadra. Avete sentito Massimo D'Alema, oggi Renzi, era la presentazione del libro di D'Alema, Non solo euro a Roma, e sentite che cosa, avete sentito cosa ha detto D'Alema? Siamo d'accordo pressoché su tutto, e c'era qualcuno quasi preoccupato, insomma, come prima erano il rottamato e il rottamatore, adesso invece evidentemente, diciamo, cioè, si è ricreata la sintonia. Così funziona la politica in Italia. Però noi, come sempre, ci ritroviamo a quest'ora per avere una sintesi della giornata e poi per approfondire alcuni argomenti in particolare. Direi che il più delicato questa sera è quello che riguarda l'eutanasia, visto che il Presidente della Repubblica Napolitano ha rilanciato questo tema scrivendo una lettera all'Associazione Luca Coscioni, insomma, esprimendo la sua solidarietà verso i familiari di chi soffre, di chi arriva a queste decisioni, e dicendo che solleciterà il Parlamento a occuparsene con urgenza. In realtà sono anni che si parla di questo argomento. Che opinione avete su questo tema? C'è sempre la pagina Facebook per voi, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure i messaggi al 349-238-6666. Ma intanto vi ricordo i fatti principali. Immigrazione, Canale di Sicilia, 13 barconi in mare, soccorsi 1200 migranti. Spending Review, ecco la cura Cottarelli, 5 miliardi di risparmi in 8 mesi. Scuola, sì della Camera sugli scatti degli insegnanti, nuovo stop però per i 4000 pensionandi bloccati dalla riforma Fornero. La sfida di Renzi per l'Europa, stop alla tecnocrazia o perdiamo, dice presentando il libro di D'Alema, usciamo dall'atteggiamento di sudditanza dell'Unione Europea. Crimea, Putin firma l'annessione, probabili nuove sanzioni di Stati Uniti e Unione Europea. La strage di Taranto, indagini serrate nella città dove è stato ucciso anche un bimbo di 3 anni. La mamma fu testimone nel processo contro il killer del marito. Partiamo quindi dalla famosa Spending Review. Oggi il commissario Cottarelli ha illustrato il suo piano di tagli e risparmi in un'audizione in Senato. Ridimensiona l'intervento sugli statali, aggiorna al rialzo i risparmi possibili per l'anno in corso. Il commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli interviene al Senato e fornisce cifre e dettagli sui tagli alla spesa pubblica improduttiva che permetteranno di coprire parte degli interventi economici annunciati dal governo. Per il 2014 fa capire allora Cottarelli, partiamo da 3 miliardi ma si può arrivare a 5. Esiste un margine di incertezza, ovviamente, sui 3 miliardi ci si può contare, direi al 100%, si può contare al 100% anche su un ammontare più ampio se ci si muove con una notevole energia. Valori che possono cambiare dunque in base alle scelte politiche, stesso discorso dice Cottarelli per l'intervento una tantum sulle pensioni, si può anche decidere che non si devono toccare. Altro capitolo, quello del pubblico impiego, il coinvolgimento di 85.000 statali è una prima stima di massima che va affinata, spiega il commissario alla Spending Review. Questo è un numero che è indicato nel rapporto, che va poi raffinato sulla base delle effettive riforme che dovranno essere chiarite nel corso del 2014. Basta tagli, non siamo un bancomat, replicano i sindacati degli statali. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto è arrivato il sì definitivo della Camera al decreto legge sugli scatti stipendiali del personale della scuola. Nuovo stop però per i circa 4.000 insegnanti che a causa della riforma Fornero non erano riusciti ad andare in pensione nonostante i requisiti. Sentiamo Massimo Di Menna della UIL Scuola al microfono di Maria Piera Ceci. Le conseguenze, se non viene superato questo stop, è che rimane la decisione negativa della legge Fornero, che non considera per gli insegnanti ai fini pensionistici la specificità dell'anno scolastico. Quindi la ragioneria dello Stato dovrà verificare, dovrà ricambiare questa opinione, o il governo dovrà trovare una copertura finanziaria eventualmente. Queste sono delle persone che dovrebbero avere calcolato i requisiti pre-legge Fornero per poter andare in pensione. cui sono tutti regolarmente in servizio, per poter andare in pensione trattava di avere il calcolo dell'anziana di servizio non al 31 dicembre ma al 31 agosto dell'anno successivo, perché il personale della scuola e solo il personale della scuola va in pensione per l'anno scolastico dal 1 di settembre, non ci può andare dal 1 di gennaio. Adesso spostiamoci invece sulle notizie di primo piano dall'estero. Росія для Криму і Крим для Росії. Questo è Putin che oggi ha firmato l'annessione della Crimea dopo il referendum per la secessione dall'Ucraina e l'annessione della Crimea alla Russia. Però le notizie, a parte le sanzioni di Unione Europea e Stati Uniti che saranno più dure a quanto pare dagli ultimi annunci, la notizia più grave è che ci sono due morti in una sparatoria in Crimea. È così, Sergio Nava, no? È così, buonasera Roberto. Ciao Sergio. Buonasera agli ascoltatori. L'ultima ora, che era di pochi minuti fa, è che i morti appunto a Simferopoli in questa sparatoria sarebbero due. Inizialmente si era parlato solo di un militare ucraino, ma ci sarebbe anche un membro delle forze di autodifesa, che sono ovviamente forze filorusse, ed è chiaramente il segnale che la tensione si sta alzando. In Crimea. Il tutto è avvenuto alla fine di una giornata decisamente sopra le righe. L'abbiamo ascoltato poco fa, il discorso di Vladimir Putin, in cui ha ratificato l'annessione della Crimea dopo una manovra insomma che è stata abbastanza evidente fin dall'inizio e che è stata condotta da Mosca. Putin tra l'altro ha anche irriso le potenze occidentali, i paesi occidentali, dicendo beh, si sono accorti che c'è un diritto internazionale, ovviamente riferendosi al passato. E dall'altro lato però ovviamente la reazione da parte di Europa e Stati Uniti è stata molto forte. Barack Obama ha convocato un G7 straordinario, quindi senza la Russia, altrimenti quindi ne ha levato uno, sono più G8 ma G7, perché anche lì sta succedendo qualcosa, nel senso che in teoria il 3-4 giugno ci sarebbe dovuto essere un G8 a Sochi. I preparativi sono stati sospesi, lo ha confermato anche oggi Angela Merkel, e Obama di fatto sta riesumando il G7 senza la Russia in una chiara indicazione che Mosca è fuori dai giochi. Per isolare insomma la Russia. Esatto. Il tutto mentre la notizia è che sul fronte europeo i 28 leader europei venerdì mattina firmeranno l'accordo di associazione con l'Ucraina, quell'accordo che poi è stato alla base di tutto quello che è successo a partire dall'autunno fino ad oggi. Quell'accordo è stato veramente l'oggetto del contendere tra Bruxelles e Mosca, e giovedì sera ne parleranno anche a cena. Questo lo ha scritto nella lettera di invito al vertice europeo il presidente Van Rompuy, che dovrebbe, presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, dovrebbe partire domani per Mosca per vedere proprio Vladimir Putin. Quindi diciamo che tra l'altro non è escluso che ci saranno ulteriori sanzioni o ulteriori misure proprio durante il vertice europeo che si svolgerà giovedì e venerdì a Bruxelles. La situazione è assolutamente in evoluzione. E su questo ci aggiorneremo poi, Sergio, so che vai a Bruxelles. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Adesso torniamo sulle cose più prettamente casalinghe, diciamo. Parliamo di Renzi al lavoro stamane di buon'ora, ha subito scritto un tweet alle sue ore veramente antilucane. E dopo l'incontro di ieri con la Merkel, e poi stasera, come vi dicevo, ha presentato il libro di Massimo D'Alema a Roma. Sorridenti si incontrano, si stringono la mano e depongono le armi. Matteo Renzi presenta il libro di Massimo D'Alema sull'Europa, scherza sul fatto che siano d'accordo, ma subito il presidente del Consiglio lancia l'allarme: populismo alle europee, la sfida è politica, il nostro paese è fondamentale. Noi non siamo l'ultima ruota del carro in Europa. L'Italia è la seconda manifattura di questo continente. L'Italia ha un avanzo primario che è il secondo nei ranking internazionali dei grandi paesi europei. Ribadisce che il problema dell'Italia prima del debito è un problema di crescita, ma bisogna fare le riforme, anche quelle che non sono state fatte in passato, anche per colpa della sinistra. La partita dell'Italia non si gioca sulle misure economiche. Si gioca sulla capacità di mostrare ai partner europei e ai cittadini che noi stavolta le riforme le facciamo sul serio. E Renzi auspica l'approvazione definitiva dell'Italicum entro il 25 maggio. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore Roma. Nel frattempo fa discutere il Jobs Act, il piano del lavoro di Renzi. Chiarimenti sono arrivati dal ministro del lavoro Poletti, mentre il presidente di Confindustria Squinzi si dichiara deluso dai ritardi nella restituzione dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese. Era stato promesso dal primo ministro un intervento nel giro di 30 giorni, poi ha modificato il tiro per San Matteo, quindi siamo a settembre, io avrei preferito per San Giorgio. Troppo lunghi i tempi stabiliti dal governo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, si dice deluso dalla data fissata da Renzi, quel San Matteo al quale ha fatto riferimento cade il 21 settembre, troppo tardi, meglio sarebbe stato, dice il leader degli industriali, San Giorgio ad aprile o al limite anche San Pietro e Paolo che cadono a fine giugno. Insomma, continuo il riferimento ai santi e continuo il pressing degli industriali sul governo anche sul fronte del lavoro. Squinzi ribadisce no a un derby IRPEF-IRAP per stimolare l'economia, anche se ritengo importante intervenire comunque sul costo del lavoro. E intanto proprio il ministro del lavoro Poletti torna a difendere la via delle riforme intraprese dal governo Renzi, in particolare il decreto lavoro, ma si dice anche disponibile a cambiare. Io sono interessatissimo a discutere, a capire, e se mi convinco che le cose che faccio non sono quelle giuste, pronto a cambiarle, proprio perché non ho particolarissime teorie economiche o del lavoro da affermare. Io delle teorie non ce n'ho neanche una. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E in tutto questo l'OCSE torna a denunciare la sofferenza delle famiglie italiane per il protrarsi della crisi. Lo sguardo sulla società dello studio OCSE mostra un'Italia che ha subito un contraccolpo dalla crisi quantificabile in 2.400 euro in meno per famiglia ogni anno, facendo una media tra il 2007 e il 2012, quasi il doppio di quanto la crisi ha bruciato in media per le famiglie della zona euro, e cioè 1.100. Il reddito medio pro capite in Italia è sceso perciò in 5 anni a 16.200 euro. Tra le cause, dice l'OCSE, il sistema di previdenza sociale scarsamente preparato al boom di povertà e disoccupazione e il deterioramento del mercato del lavoro, soprattutto per i giovani. Ma pur essendo ora l'Italia 20esima su 34 paesi che aderiscono all'OCSE, l'organizzazione parigina promuove le riforme del lavoro e del welfare che vanno nella giusta direzione, perché il rischio è di radicare difficoltà economiche e disuguaglianze. In 5 anni il 10% più povero ha perso in media il 6% l'anno, mentre il 10% più ricco ha perso solo un punto. In un contesto in cui il tasso di povertà tra i giovani è aumentato di 3 punti percentuali, arrivando al 15,4%, e quelli sotto i 18 anni 2 punti percentuali. I giovani disoccupati o inattivi, anche nell'educazione, i cosiddetti NEET, sono aumentati di 5 punti in 5 anni. Giovani e giovanissimi toccano il fondo più dei quarantenni e degli over 75, un trend anche per l'avvenire con il sistema attuale e senza cambiarlo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Corte Costituzionale tedesca ha respinto i ricorsi contro il cosiddetto fondo salva stati. La consulta aveva già dato un sostanziale semaforo verde nel settembre 2012. Oggi il giudizio dà il via libera definitivo a questo fondo salva stati. Torniamo in Italia. Il procuratore generale della Cassazione ha chiesto la conferma dei 2 anni di interdizione dai pubblici uffici per Silvio Berlusconi, condannato in via definitiva, come sapete, a 4 anni per frode fiscale nel processo Mediaset. Però la sentenza è attesa ad ore, in queste ore, anzi, quindi tengo d'occhio le agenzie, appena esce naturalmente vi aggiorno. Per la cronaca, a Taranto, indagine tutto campo dopo la strage costata la vita a un bimbo di non ancora 3 anni, presto arriverà in Puglia il ministro Alfano, poi ne parleremo di questo. Importante sapere anche che c'è un sciopero nazionale domani di 24 ore nel trasporto pubblico locale, a proclamarlo unitamente su tutte le sigle sindacali per il contratto scaduto da 7 anni. A Milano mezzi pubblici fermi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio, a Roma dalle 8.30 alle 17.30 e poi dalle 20 a fine servizio, a Napoli dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. È il momento adesso di chiudere con il calcio, è una serata di Champions League, non ci saranno le squadre italiane ma noi ci interessiamo lo stesso, Dario Ricci? Eh sì, insomma, abbiamo una spiccata predisposizione internazionale, diciamo così, Roberta. Beh, siamo intorno alla mezz'ora del primo tempo, le sfide di stasera Chelsea-Galatasaray, la sfida tra Mourinho e Mancini e Real Madrid-Schalke 04, ebbene, e a Londra in vantaggio i Blues grazie alla rete di Samuel Eto'o, altra vecchia conoscenza interista. Al quarto minuto, ricordiamo, all'andata 1-1 in Turchia, quindi partita comunque apertissima, chiuso ormai già dall'andata il discorso invece tra Real Madrid e Schalke 04. I bianchi di Ancelotti hanno vinto in Germania per 6-1, quindi qualificazione già in tasca, e sono in vantaggio anche stasera grazie a un gol al 21esimo del solito Cristiano Ronaldo. Cristiano, bene, ci aggiorniamo dopo, grazie Dario Ricci. Intanto vedo diversi vostri messaggi. Giorgi, sulla questione dell'eutanasia che oggi è stata appunto riproposta in primo piano da Napolitano, e poi sarà un argomento perché di discussione questa sera ci sarà Beppino Englaro, qui a Effetto Notte. Per esempio dice Gennaro da Udine: io credo che tutto debba essere lasciato alla volontà del popolo, ma siamo abituati in Italia a non contare come voce, si guardi al referendum sul finanziamento, sulle responsabilità dei giudici, praticamente non siamo in democrazia, 1000 persone decidono per 50 milioni. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Adesso ve le ricordo le notizie mentre voi state scrivendo sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vogliamo sentirci proprio per alleggerire un po' qualche secondo di Crozza a Ballarò. Nuovo Berlusconi, Monti, Letta e ora Renzi. Ma la Merkel di lavoro fa i casting di premier italiani? Lei cosa ha portato? Un attimo, finisco una telefonata e arrivo. Prossimo! Io ho portato tanta calma, calma. Anche prossimo! Io ho portato un monologo su lacrime e sangue. Le faremo sapere. Avanti Letta, Letta, Letta! Letta purtroppo ha preso il treno. Sarei venuto io del fare, del dire, di riformare, del giobattare. Bene, questo è il casting dalla Merkel, tutti i vari premi che sono, si sono presentati. E adesso vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. Immigrazione, canale di Sicilia, 13 barconi in mare, soccorsi 1200 migranti. Spendi review, ecco la cura Cottarelli, 5 miliardi di risparmi in 8 mesi. La scuola, sì della Camera sugli scatti degli insegnanti, ma nuovo stop per i 4000 pensionandi bloccati dalla riforma Fornero. Crimea, Putin firma l'annessione, probabili nuove sanzioni da Stati Uniti e Unione Europea. Intanto in una sparatoria muoiono in Crimea un militare ucraino e un membro delle forze di autodifesa filorusse. Strage di Taranto, indagini serrate nella città dove è stato ucciso anche un bimbo di 3 anni. E dunque cerchiamo di capire che cosa succederà, sta succedendo in Crimea man mano. Prima abbiamo sentito la cronaca da Sergio Nava e adesso invece cerchiamo di capire con Jacopo Zanchini. Bentornato Jacopo. Buonasera, buonasera. Vice direttore del settimanale internazionale, dove potete trovare tutte le notizie che riguardano i più importanti, che riguardano il mondo, anche quelle così meno rilevanti, ma sempre piuttosto significative, e che ovviamente ci danno un'idea anche di quello che succede un po' più in là di noi. Jacopo, dunque, oggi Putin ha firmato il decreto che riconosce l'indipendenza della penisola della Crimea come stato indipendente, insomma, dall'Ucraina, quindi dice insomma, viene annesso alla Russia, sì. e Putin ha detto in realtà nel cuore, nella coscienza dei popoli la Crimea è sempre stata parte inscindibile della Russia, sono assolutamente inutili tutti i cambiamenti drammatici che ha avuto il nostro paese nei secoli, è un po' come se volesse appunto rievocare l'Unione Sovietica e forse ancora prima quasi, non per niente lo chiamano, sì, Zar Putin, no? L'impero russo, l'impero russo. Sì. Sì, è una pagina molto grave delle relazioni internazionali di oggi, è un cambiamento che probabilmente resterà negli annali e gli sviluppi ad oggi sono difficili da prevedere. Chiaramente la Russia in questo modo si pone di fatto con un'occupazione armata, per quanto strisciante, ma comunque oggi ci sono state appunto le prime vittime, pone la Crimea sotto la tutela della Russia e se la annette, e in questo modo spacca l'Ucraina con una spaccatura che non si sa se sarà la prima, perché naturalmente sappiamo che l'Ucraina è un paese molto diviso tra un blocco occidentale più ucraino e più filo occidentale, uno orientale più filo russo e russofono, quindi diciamo bisognerebbe molto calmare gli animi e cercare di tenere unito tutto quello che può restare unito. Naturalmente è un'escalation anche nei confronti della comunità internazionale, la tensione non può a questo punto che crescere. Anche perché hai sentito, scusa Jacopo se ti interrompo, che ci sono stati nelle ultime ore 2 morti in Crimea nel corso di una sparatoria a Simferopoli, un militare ucraino e un membro delle forze di autodifesa filorusse. No? Appunto, si era vantato che non era stato sparato un colpo, adesso ci sono 2 vittime e quindi questo non può che preoccupare gli ucraini innanzitutto, e preoccuparsi per l'unità dell'Ucraina non può che preoccupare la comunità internazionale, un'Europa che è arrivata a questa crisi male, in ordine sparso, impreparata, gli Stati Uniti, che in parte giustamente lo consideravano un po' un affare più europeo, e che si erano disimpegnati. Entrambi adesso sono arrivati con le sanzioni, le affermazioni di principio e le prese di posizione, e vediamo, c'è il Consiglio europeo giovedì, e venerdì anche l'Europa dovrebbe fare altri passi su questa questione della Crimea. È chiaro che è difficile a questo punto tornare indietro, cioè una volta che Putin si è annesso la Crimea non è che poi la restituisce. Lo scenario ideale sarebbe stato se ci fosse stato uno spiraglio perché l'Ucraina dicesse: noi diventiamo una federazione, e naturalmente la Crimea è una parte di questa federazione molto autonoma che coltiverà relazioni privilegiate con la Russia. Ma se andiamo in un tempo così corto e così breve a un'annessione, difficilmente Putin, anche solo per ragioni interne, potrà tornare indietro. Quindi la situazione è molto preoccupante. Tra l'altro, a proposito di sanzioni, Jacopo Zanchini, Obama ha stabilito per decreto il congelamento dei beni e il blocco dei visti ai danni di 11 alti funzionari russi. Poi sentivo anche ieri che è stato sanzionato, se non sbaglio non mi ricordo in che modo, il vicepresidente del Parlamento russo. Insomma, è accerchiato Putin, tranne che su Putin stesso, perché forse sarebbe troppo rischioso toccare il presidente direttamente. A parte escluderlo dal G7, dal G8. Di solito si fa così, anche perché non si può considerare naturalmente la Russia uno stato canaglia, quindi cioè Putin è comunque nel G8, la Russia è un partner sia dell'Europa che degli Stati Uniti, chiaramente non si possono prendere contro un capo di Stato questo tipo di provvedimenti, a meno che non si sia in una situazione molto più drammatica di questa. È un segnale, chiaramente nella diplomazia questo è un segnale forte, e al quale però Putin ha risposto accelerando ulteriormente i tempi sulla questione della Crimea. Tra l'altro ti risulta, Jacopo, che presto, entro breve tempo, visto che le cose sono andate così velocemente, la Crimea dovrebbe usare la moneta russa, il rublo, parlare, acquisire la lingua russa per tutta la popolazione? Dunque lì ci sono vari problemi. Sicuramente il passaggio di consegne Mosca intende farlo il più rapidamente possibile. Innanzitutto c'è il problema che la Crimea non ha una continuità territoriale con la Russia, anche se è molto vicina. Poi c'è il problema che sì, i russofoni sono la grande maggioranza, ma ci sono delle minoranze importanti, tra cui i tatari, che sono tradizionalmente una minoranza musulmana, che rischiano di trovarsi molto male con i russi, anche perché fu Stalin a deportarli in massa negli anni 40 e sono ritornati molto dopo, molto di meno di quanti erano, ed erano un tempo la maggioranza della popolazione della Crimea. Quindi ci sono delle tensioni precedenti durante la Seconda Guerra Mondiale, che si sono appianate solo molto dopo, negli anni, e questa minoranza tatara rischia anche, insomma, ultimamente ci sono stati dei segnali di radicalizzarsi anche in senso religioso identitario, con tutti i possibili rischi che questo presuppone. Quindi Putin in qualche modo sta facendo il genio della lampada, e però questa lampada che sta strofinando non sappiamo bene dove ci porta. Gli scenari catastrofici potrebbero essere una guerra civile in Ucraina, integralismo islamico tra i tatari e la tensione nel Caucaso russo che cresce, e la tensione ai confini con la Moldova, con la Transnistria, con tutte le regioni un po' di confine che Mosca considera quasi un prolungamento del suo territorio. Naturalmente la diplomazia dovrebbe fare il suo lavoro adesso, sia gli europei che gli americani, ma i russi devono mettersi in condizione di parlare, e per ora non lo stanno facendo, non danno segnali di distensione di nessun tipo, il che preoccupa in generale per la crisi con la Crimea e con l'Ucraina, e preoccupa anche su altri scacchieri, perché la Russia è fondamentale sulla Siria, dove purtroppo nulla si sta muovendo e la crisi continua e si aggrava ogni giorno. L'Iran, naturalmente sull'Iran. Quindi un indurimento generale delle relazioni con la Russia ha in questo momento possibili effetti a ricasco su tutte le varie crisi del pianeta, e questo è molto grave. Scenari foschissimi, insomma. Grazie Jacopo Zanchini, a presto. Grazie a voi. Ciao Jacopo. Invece adesso torniamo sulle questioni prettamente italiane, questioni terribili italiane, di una malattia del nostro paese talmente vecchia che pare che non si riesca a estirpare. Insomma, parliamo di una strage di mafia, l'ennesima che c'è stata, e una nuova anche strage in cui di nuovo è stato vittima anche un bambino, perché ormai non esiste più quel codice, insomma, di cui si parlava una volta dei mafiosi, che i bambini non si toccavano. Ormai anche in quel caso superato completamente il limite. Domenico Palmiotti, ciao. Ciao, ciao Roberta, ciao. Capo della redazione di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno. Domenico, quindi questa strage di Taranto che ha tanto colpito Alfano, ministro dell'Interno, ha mandato giù 60 poliziotti, ha detto che presto sarà lì a Taranto, che va estirpata, questa, anche se sono insomma cose che si dicono da tanti anni. È una vicenda terribile anche questa, la ricordo per chi non avesse sentito questi giorni, ma insomma tre morti nella strage di mafia, anche un bambino, uccisi la mamma e il compagno pregiudicato. Andavano in macchina lungo la Taranto-Reggio Calabria e una macchina con dei killer li ha affiancati. L'obiettivo era il pregiudicato, un uomo in semilibertà, colpiti la compagna che guidava e il figlioletto in braccio a lui di 3 anni, sono rimasti vivi, e altri 2 fratellini più grandi, naturalmente possiamo immaginare in quali condizioni di shock. E ogni tanto si pensa alla Puglia come un po' più distante da queste cose. Ma la Puglia non è distante da queste cose, perché proprio nell'area di Taranto qualche settimana fa sia il procuratore della direzione distrettuale antimafia Cataldo Motta che il procuratore di Taranto Franco Sebastio hanno messo in evidenza come la mala, i clan stiano rialzando la testa. Attenzione, c'è un ritorno della criminalità, ci sono esponenti dei clan che stanno tornando in libertà dopo aver scontato anni di carcere, c'è l'acuirsi della crisi, c'è il fatto che la mala in tempi di crisi tende, come dire, a blindare i propri interessi e i propri territori, e questo provoca dei conflitti fra gruppi malavitosi. Probabilmente gli inquirenti stanno lavorando su questo. Cosimo Orlando, l'uomo di 43 anni, è stato ucciso ieri sera a Palagiano, perché pur essendo in regime di semilibertà, lui praticamente lasciava la mattina il carcere, andava a lavorare in un'azienda agricola, avendo già scontato una larga parte della pena per un duplice omicidio commesso anni fa, bene, probabilmente secondo gli inquirenti Orlando, nonostante questo regime di semilibertà, era comunque tornato a trafficare nel mondo della droga, e quindi sarebbe potuto entrare in collisione con altri gruppi malavitosi che erano sullo stesso business criminale. Ovviamente le indagini stanno anche scandagliando la vita della donna, che era la moglie di un altro pregiudicato che nel 2011 fu ucciso insieme ad un suo compagno a Palagiano. Anche questa è una morte orribile, perché l'uomo fu sparato e poi il suo corpo insieme a quello del compagno fu carbonizzato. Il bambino che è morto ieri sera in questo agguato di male porta proprio il nome del padre, quindi anche legati entrambi da un tragico destino, tutti e due morti per mano di malavita. Senti, ma a parte che questo la dice lunga anche su questi permessi, forse dovrebbero essere più controllati, cioè, sono in sottorganico le forze dell'ordine, non lo so, ma insomma, che stesse in semilibertà, intanto facesse i suoi traffici. Lui era stato condannato all'ergastolo, poi in appello la pena gli era stata ridotta, aveva scontato una buona parte della pena, il tribunale di sorveglianza gli aveva dato l'accesso al regime della semilibertà, e secondo gli inquirenti questo appunto avrebbe fatto sì che l'uomo tornasse, voglio dire, alle sue antiche abitudini. Ecco. Senti, ma è la sacra corona unita questa per chiudere? Esiste ancora qualche propagine che è la tipica mafia pugliese, diciamo. Sì, la vecchia mafia pugliese, sono gruppi locali che fanno capo a dei clan specifici che controllano le estorsioni, ma soprattutto le estorsioni, l'usura, il racket, ma soprattutto il traffico della droga, che è il vero business rilevante di questi gruppi malavitosi. Voglio ricordare, a parte appunto Alfano che sarà presto lì a Taranto, ma anche Radio 24, dopo la tappa di Napoli, continua il viaggio Passione Sud di Radio 24, che arriva a Bari domani. domani una settimana dedicata al capoluogo pugliese, un appuntamento nei GR e poi con nei programmi in diretta per raccontare insomma quello che però si muove di positivo anche nel sud, delle imprese determinate, le storie di successo, senza naturalmente nascondere i problemi. Spero ci sarai anche tu, Domenico Palmiotti. Certo, comunque avremo certo modo. In effetti è una Puglia che ha ombre ma anche delle luci importanti. Certo, una grande regione. E anche in settori industriali che si stanno espandendo. Ecco, a Taranto non è soltanto la guerra di Mala di queste ore, non sono soltanto i fumi e l'inquinamento del Nilo, ma ci sono anche dei progetti positivi come quello ieri messo in pista dalla regione per aerospazio. Grazie Domenico Palmiotti. Grazie. Speriamo che si vada sempre più in positivo in queste realtà. Ci fermiamo, c'è la pausa di pubblicità e poi vi dicevo il delicato argomento appunto del fine morte che oggi ha rimesso in primo piano Napolitano con i vostri messaggi. Vedo Franco: così come è giusto assistere una persona che vuole vivere attaccata ai respiratori, allo stesso modo se uno come me in quelle condizioni ha tutti i diritti di farsi staccare la spina, bisogna rispettare, dice, le scelte individuali. Questo per i messaggi al 349-238-6666 oppure i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, sempre a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte, anche i messaggi che vedo continuamente arrivare sull'argomento che tratteremo tra poco, come vi dicevo, la delicata materia della fine morte che oggi di nuovo ha riportato alla luce, proprio il caso di dire, Napolitano, visto che tante proposte di legge stanno lì sepolte nelle Camere, sia Senato che alla Camera, da anni. Ma prima vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. Immigrazione, Canale di Sicilia, 13 barconi in mare, soccorsi 1200 migranti. Spending Review, ecco la cura Cottarelli, del commissario Cottarelli, 5 miliardi di risparmi in 8 mesi. OCSE, reddito delle famiglie italiane giù di 2400 euro in 5 anni. Scuola, sede della Camera sugli scatti degli insegnanti, c'è il nuovo stop però per i 4000 che dovevano andare in pensione bloccati dalla riforma Fornero. Crimea, Putin firma l'annessione, sono probabili ulteriori sanzioni da Stati Uniti e Unione Europea. Intanto in una sparatoria muoiono un militare ucraino e un membro dell'auto difesa, del corpo di autodifesa filorusso. E poi la strage di Taranto, indagini serrate nella città dove è stato ucciso anche un bimbo di 3 anni. La mamma fu testimone del processo contro i killer del marito. E ho l'onore di salutare Beppino Englaro. Buonasera Beppino Englaro. Buonasera a voi. Peppino Englaro, che è diventato famoso suo malgrado per la storia di sua figlia Luana, che ha vissuto con Peppino Englaro con tanta dignità, con tanto dolore negli anni, con tanta pervicacia e anche, bisogna dire, con una pacatezza straordinaria. La figlia è la storia di sua figlia, la ricordate tutti, è diventato il caso Englaro, il caso di Luana Englaro, che è rimasta in stato vegetativo dopo un grave incidente automobilistico, questo per 17 anni. È stato anche un lunghissimo iter giudiziario che Peppino Englaro ha affrontato con grande coraggio, finché poi sono stati staccati l'alimentazione, quindi è morta in modo naturale. Ma questo caso aveva riaperto qualche anno fa, se non sbaglio nel 2009, Peppino Englaro? Nel 2009. L'epilogo è stato il 9 febbraio del 2009. Del 2009, quando appunto sua figlia è stata lasciata morire dopo 17 anni. C'erano, vi ricordate, quante polemiche, anche delle cose molto pesanti, abbastanza, qualcuna anche indegna, che era stata detta in quel caso, al di là delle diverse coscienze o diverse opinioni su questo argomento. E da lì sembrava che si fosse riacceso molto il dibattito, poi evidentemente, come vi dicevo, ci sono tantissime proposte di legge che però giacciono inerti in Parlamento, perché sembra che non si voglia affrontare questo argomento, forse si ha paura di frammentazioni, di spaccature politiche, si preferisce allora rimanere su altri temi, e questo è sempre lì un po' così lasciato senza molto interesse. Però vi dicevo, oggi è stata la presa di posizione del capo dello Stato. Napolitano ha mandato un messaggio al consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni, questo responsabile si chiama Carlo Troilo, dove ha sottolineato Napolitano l'urgenza di affrontare questa delicata materia del fine vita. Ha detto: richiamerò su tale esigenza l'attenzione del Parlamento. Sentiamo allora, letta proprio da Troilo, questa lettera che Napolitano ha mandato in occasione di una conferenza che è stata organizzata su questo tema. Caro Troilo, la ringrazio per avermi dato notizia dell'iniziativa programmata il 18 marzo nell'anniversario della triste data del suicidio di suo fratello Michele, e sento profondamente la drammaticità del travaglio che hanno vissuto altri partecipanti alla conferenza stampa per le disperate vicende dei loro cari. Drammatici nella loro obiettiva eloquenza sono d'altronde i dati resi noti da diversi istituti che seguono il fenomeno della condizione estrema di migliaia di malati terminali in Italia. Ritengo anch'io che il Parlamento non dovrebbe ignorare il problema delle scelte di fine vita ed eludere, virgolette, quello che scrisse Welby, un sereno e approfondito confronto di idee su questa materia. Pino Englaro, da allora, dal 2009, come le sembra che siano procedute le cose, come sono cambiate la mentalità in Italia, il modo di affrontare questo tema? Guardi, le cose sono cambiate perché io nel gennaio del 1992, quando Leluana ha avuto l'incidente ed è precipitata nella condizione poi di stato vegetativo permanente, ho trovato un deserto come clima culturale. Questo problema non se ne voleva neanche parlare, anche la stampa non ne voleva parlare, nei media come televisione, niente. Dopo l'epilogo di questa vicenda, o durante la fase terminale dell'epilogo, perché il tutto dal punto di vista mediatico è partito soprattutto, e prima di tutto ne hanno parlato già il 14 giugno del 2000, tanto i tre telegiornali di Rai quanto quelli di Mediaset, perché c'era stata una prima sentenza della Corte d'Appello di Milano. Ma poi, e quando c'è stata la sentenza del 16 ottobre del 2007 della Corte Suprema di Cassazione, è lì che è partito il tutto. E poi non ne parliamo poi quando c'è stato il decreto del 9 luglio del 2008. Perché allora sì che diciamo le cose sono cambiate come il giorno e la notte, perché l'opinione pubblica è informata attraverso questa vicenda di quello che non si può escludere di andare incontro in determinate situazioni. Nel caso di mia figlia riguardava sempre l'esercizio del diritto fondamentale di autodeterminarsi anche nella condizione non più capace di intendere e di volere, mai rivendicato fino allora, e quindi io ho dovuto attendere per avere la risposta definitiva della Corte Suprema di Cassazione ben 15 anni e 9 mesi, 5.750 giorni. Ma come le ho detto, il clima è cambiato come il giorno e la notte, perché già più di un secolo fa Pulitzer aveva detto una cosa, che un'opinione pubblica ben informata è come una Corte Suprema alla quale ci può sempre rivolgere in queste situazioni. È questo che è cambiato, veramente. Peppino Englaro, le leggo giusto qualcuno dei tanti messaggi che sono arrivati a proposito di questo argomento, per esempio dalla pagina Facebook di Effetto Notte. Domenico Alberto scrive: la libertà è il bene più prezioso che una persona possa avere, uno Stato moderno deve dare la possibilità di scegliere. Riccardo scrive: libertà di decidere del proprio corpo in quelle situazioni, dal caso Englaro al Cardinal Martini. Enzo: credo che ogni mossa sia fatta, lui dice, per distrarre da altri argomenti come l'economia, il debito, eccetera. Arturo: non siamo padroni della nostra vita perché siamo utili risorse per i mercati di schiavi, il dolore è una straordinaria arma di ricatto per quelli che speculano sulle disgrazie della gente. Massimo dice: difficilissimo giudicare e prendere posizione solo su basi morali, scientifiche o di fede. Dice: io rimango senza vergognarmi nel mio limbo di incertezza, ma non mi sento un vigliacco, confesso la mia manifesta incapacità di motivare l'una o l'altra ipotesi. Lei su questo argomento, Beppino Englaro, a questo punto che cosa si sente di dire? Guardi, io ricordo ancora sempre il gennaio del 1992, che sono esattamente 22 anni e due mesi fa, dove quando il professore responsabile della rianimazione di Lecco, Riccardo Massei, mi parlò della cultura della vita, dicendo che lui non poteva non curare, cioè non poteva prendere in considerazione quello che avrebbe voluto Leluana in questa situazione, perché gli ho fatto presente che Leluana conosceva nello specifico la situazione nella quale si è venuta a trovare e si era espressa con un semplice: non a me ricordatelo. Allora lui gli ho contrapposto la cultura della libertà, gli ho detto, non sa andare oltre questa cultura della vita che lei mi evoca, la cultura della libertà lei non conosce, perché l'Iluana, e lei voleva essere trattata da persona libera e responsabile, aveva nel suo DNA l'etica della responsabilità, sapeva assumersi le sue responsabilità e non si sarebbe mai sognata che altri potessero disporre di vite altrui. Ecco, già allora lui mi diceva che semplificavo troppo questa situazione. Questo perché lei ricorda che sua figlia, quando era in vita, aveva espresso più volte una sua opinione su questo argomento, no? Lei era solita, no, si era espressa in questi termini addirittura. Se non posso essere quella che sono adesso e c'ho la possibilità di essere lasciata morire, non avrebbe avuto il benché minimo dubbio, persino nello specifico perché lei un anno prima del suo incidente, nella stessa rianimazione che è capitata a lei e più o meno nelle stesse condizioni, era andata a trovare un suo amico e quindi aveva visto l'evoluzione della cresciuta potenza della scienza medica, perché è chiaro che pochi conoscono quello che non si può escludere di andare incontro in queste situazioni, perché le conosce solo chi ci è caduto dentro e chi le crea. Noi avevamo percepito questi pericoli, non volevamo andare incontro a questi pericoli perché sapevamo assumerci le nostre responsabilità, torno all'etica della responsabilità. La tragedia della responsabilità per noi non era una tragedia e non aveva il tabù della morte, c'è questo da dire. E lei dice, Peppino Englaro, quindi la mentalità, la cultura da questo punto di vista è cambiata, prima era un tabù, non se ne poteva proprio parlare, invece poi man mano se ne parla sempre più spesso, però a livello di leggi, a livello di decisioni su questo tema, mi sembra che non se ne siano prese al momento. No, guardi, il Parlamento purtroppo non è stato in grado di fare una legge come si deve, però c'è una sentenza, c'è questa sentenza che di 60 pagine del 16 ottobre del 2007, che è chiara che l'autodeterminazione terapeutica in questo senso non può incontrare un limite, anche se ne consegue la morte. Sono parole, cioè è scritto nero su bianco su questa sentenza, e che non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Quindi qualsiasi persona, in base a questa sentenza, che ci sono questi principi di diritto in uno Stato di diritto perfettamente allineati alla nostra Costituzione e agli accordi sovranazionali di Oviedo, che ci consentono appunto di esercitare questa libertà e questo diritto fondamentale anche senza una legge ad hoc. C'è la legge delle leggi, la Costituzione, chiara in questa sentenza, che nessuno può decidere né al posto né per, ma bisogna decidere con la persona. Noi quando davamo voce all'Eluana decidevamo con l'Eluana, adesso attraverso queste disposizioni anticipate di trattamento che si possono fare in qualsiasi momento e basta farsele autenticare da un notaio e tutte queste cose, e quindi questa possibilità di esercitare questa libertà e questo diritto fondamentale anche senza la legge ad hoc è possibilissima anche adesso, in qualsiasi momento, sempre dopo questa sentenza, dove sono chiari questi principi di diritto che valgono per tutti i cittadini. Lei ha mai avuto modo di parlare con alti vertici dello Stato? Ha mai incontrato Napolitano o qualche presidente del Consiglio, Beppino Englaro? No, guardi, il presidente Napolitano l'ho incontrato alla sala dei corazzieri quando ho ricevuto la stampa, perché la stampa mi aveva riconosciuto un premio e mi ha abbracciato per questa vicenda. E lei lo sa che ha bloccato il decreto dell'allora Presidente del Consiglio Berlusconi quando voleva bloccare l'attuazione della sentenza del decreto del 9 luglio del 2008, pensi un po' lei, non gli ha firmato il decreto, gliel'ha fatto presente, perché c'era una sentenza del massimo organo giurisdizionale non più impugnabile ed era tutto nella legalità, quindi non c'era nessun bisogno di fare decreti per bloccare una sentenza di questo livello. Pino Englaro, abbiamo ancora pochi secondi, le chiedo, lei diceva c'è già una norma che riguarda l'autodeterminazione dentro la Costituzione, ma pensa che con il governo Renzi possa essere la volta buona per una decisione un po' più forte, più codificata? Non lo so, perché penso che siano in tutt'altre faccende affaccendati. Ah, la ringrazio, Peppino Englaro. Buonasera. L'abbraccio. Grazie. Buonasera. Grazie. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo molto velocemente: ucciso un militare ucraino e poi anche un membro dell'autodifesa filorussa in Crimea, 20 di guerra nella regione, Putin firma l'annessione, Obama convoca il G8 senza Mosca, cura Cottarelli per la spending review, possibili tagli per 5 miliardi in 8 mesi. E poi orrore a Taranto, 3 morti nella strage di mafia, anche un bimbo, uccisi la mamma e il compagno, pregiudicato, illesi i fratellini. E adesso direi di parlare invece subito di Europa, sono i nostri 3 minuti dell'Europa, naturalmente sapete che il 25 maggio si vota per le europee, parte male Horizon 2020, il finanziamento europeo per ricerca e innovazione che nelle intenzioni di Bruxelles dovrebbe essere uno dei volani per uscire dalla crisi, pubblicati i bandi 2014-2015, quelli che sulla carta dovevano essere la rivoluzione per il finanziamento della ricerca europea, sembra non aver imboccato invece la strada giusta. Così almeno stando al dibattito organizzato questa mattina a Bruxelles da Euronet Plus e Radio 24, tra gli ospiti Enzo Andreata, presidente APRE, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, che riunisce, facendo capo al MIUR, le associazioni che vogliono promuovere l'innovazione. Sentiamolo al microfono di Anna Migliorati. Europa 24 notte. Verso le europee. Il primato da raggiungere è sempre lo stesso, il livello di innovazione degli Stati Uniti, ma a far paura sono ormai anche Cina e Corea. Fatto sta che l'Europa non può permettersi di restare indietro. Ricerca e innovazione sono obiettivi importanti anche per tornare a crescere. Si chiama Horizon 2020, il piano di fondi che ci porterà fino al 2020, finanziato con oltre 70 miliardi di euro. I bandi per il primo biennio sono già pubblicati, la corsa è partita. 15 miliardi di euro quelli previsti per il 2014 e il 2015. L'Italia riuscirà a fare meglio? A Bruxelles abbiamo discusso di questo in un dibattito organizzato da Euronet Plus e Radio 24. Ne ha un'idea ben chiara Enzo Andreata, presidente APRE, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, che riunisce, complice il MIUR, le associazioni che vogliono promuovere l'innovazione per non perdere l'occasione. Si deve concentrare su meno progetti, ma molto più grossi e con un forte impatto sul sistema e sul territorio, sul cambiamento del modello sul territorio, il che significa che dall'inizio il progetto deve essere una strada condivisa, una visione condivisa, e quindi ognuno si assume la sua responsabilità nel fare il suo pezzo. Quindi c'è un cambiamento, diventa una governance collettiva, pubblica e privata, dove c'è una corresponsabilità oltre che una condivisione, diciamo, dei costi e delle risorse e quindi anche dei benefici. L'Italia in passato alcune occasioni sul fronte della ricerca con i finanziamenti europei le ha persi. Provocatoriamente si disse anche che l'Italia in qualche modo finanziava la ricerca tedesca. Si riuscirà questa volta a fare sistema? Voi come APRE in qualche modo state cercando di fare da collettore. Riusciremo a fare sistema paese e accogliere questa occasione? Le capacità di farlo ci sono, è un problema di volontà politica di farlo, perché per poter effettivamente riuscire a fare meglio bisogna effettivamente essere in grado di fare progetti più importanti che facciano sinergie tra i fondi strutturali e i fondi Horizon 2020. Non è mai stato possibile. La Commissione ha cambiato il regolamento finanziario e prevede che su uno stesso progetto è possibile utilizzare risorse finanziarie europee diverse, che è un grosso cambiamento. Allora, il segreto secondo me, ed è quello che l'APRE sta facendo moltissimo, è proprio questo, di dire signori, per riuscire effettivamente ad assorbire, a utilizzare tutte le risorse che sono, diciamo, disponibili per noi, migliorando pure anche la competitività a livello della ricerca, perché lì ci sono due sistemi diversi. Lei sa che la ricerca è basata sul merito e quindi finanziano solo i progetti migliori indipendentemente di quello che può essere il giusto ritorno per ogni singolo paese. La volontà politica deve essere a livello delle regioni e del paese, deve essere quella di dire basta con piccoli progetti e un spalmamento di questi dappertutto. Oggi i fondi strutturali sono stati utilizzati solamente come strumento elettorale, basta, deve finire. Le regioni devono essere capaci di trovare dei temi sui quali veramente c'è un forte valore aggiunto per la regione e per l'Europa, su quei pochi concentrarsi e utilizzare insieme la ricerca da una parte e fondi strutturali dall'altro. Per la realizzazione, la ricerca e la realizzazione insieme. Una strada aperta, insomma, ai ricercatori e alle imprese italiane non resta che rimboccarsi le maniche. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. E prima di lasciarci, poi dopo vi ricordo quali sono stati i fatti principali, una notizia che è arrivata in questi istanti, la si aspettava in serata: la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per 2 anni nei confronti di Silvio Berlusconi nel processo Mediaset. L'ex premier era già stato condannato con sentenza irrevocabile per frode fiscale alla pena principale di 4 anni di reclusione e 3 coperti dall'indulto, quindi in realtà un anno solo, ma confermati appunto questi 2 anni di interdizione dei pubblici uffici. Poi vi ricordo che il 10 aprile dovrebbe anche arrivare la sentenza se dovrà restare agli arresti domiciliari oppure andare ai servizi sociali. Ci sentiamo dopo.